che ho cercato di dire nel mio articolo è che la speculazione ha delle sue dinamiche e queste dinamiche possono essere a volte perverse, però fino a quello che abbiamo visto ad oggi, se c'è una perversione è che gli speculatori intervengono troppo tardi. Cioè, come spiego nel mio articolo, speculare a ribasso è estremamente pericoloso per chi lo fa, e uno lo fa solo quando è estremamente sicuro. Il risultato è che i segnali che noi vediamo dal mercato arrivano troppo tardi, cioè Lehman era fallita ben prima che gli speculatori l'attaccassero, la Grecia ed Irlanda avevano dei problemi ben prima che gli speculatori l'attaccassero, e quindi il mio messaggio è: state attenti, che se dovete avere paura del mercato è che il mercato sia troppo buono, non troppo cattivo, che alcuni indicatori che oggi segnano bel tempo possono essere mal tarati e poche variazioni possono portare la speculazione a concentrarsi, quindi a essere più precisa e quindi a portare dei risultati drammatici che però sono nella realtà. Cioè la speculazione contro la Grecia non è stata una speculazione ingiusta, è stata una speculazione tardiva per un problema che esisteva a lungo tempo. Lei dice in un passaggio, insomma, con un esempio che è molto, molto chiaro: più che a lupi famelici, gli speculatori al ribasso, cioè chi scommette sul crollo di un mercato, sul crollo di un debito pubblico di un paese o di un titolo, dicevo, più che a lupi famelici, gli speculatori al ribasso assomigliano a un branco di iene, pronte ad avventarsi su degli animali morti, ma timorose di assalire quelli vivi. Ora, non è che definendo iene invece che lupi che abbia fatto un favore agli speculatori, però, questo glielo riconosco, però... Dico, va bene le iene, ma la iena, se nell'immaginario collettivo non ha una bella fama, è forse perché marmaldeggia, cioè si avventa su qualcuno che è già in difficoltà, no? Sì, però questo è il problema dell'immaginario collettivo. Nell'immaginario collettivo, almeno nella Russia zarista, i medici erano pericolosi perché associavano i medici all'arrivo del vaiolo. Chiaramente invertivano il rapporto di causa ed effetto. I medici arrivavano perché c'era vaiolo, non è che il vaiolo arrivasse perché c'erano i medici. Quindi la fama triste delle iene non è dovuta al fatto che le iene siano così cattive come animali, è che ovviamente si presentano nelle situazioni difficili. E lo stesso vale per gli speculatori. Gli speculatori mettono in evidenza i problemi esistenti e